Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi io parto da una domanda: perché l'Europa è diventata così impopolare? Lo chiediamo a voi, vi chiediamo di rispondere attraverso il sondaggio che potete trovare all'interno del nostro sito www.radio24.it. Lo vedete in bella vista, ci sono varie opzioni. Vi chiediamo nei prossimi giorni di contribuire alla riflessione su questa crisi dell'Europa. Poi il 27 di aprile avremo un grande dibattito transeuropeo sul web, sulla radio, tutto questo naturalmente con il vostro contributo. Di certo uno dei fattori critici è il grande fenomeno della immigrazione che l'Europa subisce ormai da 3-4 anni, con una fatica enorme a gestire, a trovare delle soluzioni umane da un lato, pratiche dall'altro. Allora partiamo da qui. Oggi si discute proprio a Bruxelles di revisione delle cosiddette regole di Dublino. Partiamo dal servizio di Alessandra Schepisi. Possibili terroristi tra i migranti irregolari che arrivano in Europa. A rilanciare l'allarme sul rischio di infiltrazioni è Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne della UE. Nel suo rapporto 2016 segnala anche un record di passaggi illegali nel 2015, con 1.800.000 attraversamenti irregolari della frontiera esterna. Tutto questo nel giorno in cui la Commissione europea presenta la riforma dell'attuale sistema di Dublino. Nessuna proposta legislativa formale, solo una comunicazione per avviare un dibattito, una bozza sulla quale 28 dovranno successivamente esprimersi. Tuttavia è pur sempre qualcosa, visto che il sistema, dopo quasi 20 anni, si rivela del tutto inadeguato. Superarlo è dunque necessario per la Commissione, e ciò vuol dire superare il meccanismo in base al quale la responsabilità della vasta maggioranza dei richiedenti asilo viene scaricata su un numero limitato di paesi. Due le opzioni: da una parte una vera e propria riforma radicale del regolamento, che verrebbe sostituito con un meccanismo di ripartizione automatico gestito da un'agenzia comunitaria dell'asilo. Le quote sarebbero permanenti e i rifugiati verrebbero direttamente allocati in un altro paese, un'opzione che piace a Roma, a Berlino, ma non ai paesi dell'est. L'altra, più debole, prevede il mantenimento del sistema attuale con l'aggiunta di un correttivo di ripartizione che scatterebbe in caso di emergenza. Saranno i governi a scegliere quale opzione seguire, e di qui all'estate, quando arriverà la proposta legislativa vera e propria, si preannuncia battaglia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Mentre infiamma lo scandalo dei Panama Papers, l'Europa fa i conti con quella che per lei è di fatto una lotta di lungo corso contro le multinazionali che evadono il fisco. A gennaio è stato varato il primo pacchetto antievasioni e la prossima settimana arriverà a Bruxelles la bozza centrale della direttiva. Per ottenere però un'omogeneizzazione delle imposte fiscali ci vorrà parecchio tempo, ci spiega Stefano Simontacchi dello studio Bonelli Erede, perché dice c'è ancora troppa competizione tra gli stati nel voler attrarre le imprese. Dopo gli scandali degli ultimi anni, dall'AxiLeaks ai Panama Papers, l'Europa va avanti con la lotta contro le multinazionali che evadono il fisco. A gennaio è stato varato il primo pacchetto anti-evasione. Il commissario Moscovici chiede di accelerare. La prossima settimana arriverà a Bruxelles la bozza centrale della direttiva. Le grandi società dovranno pubblicare tutte le informazioni sul proprio business, impiegati, giro d'affari, utili e così via, per aumentare la trasparenza e far sì che le tasse vengano pagate nel paese in cui si realizzano i profitti. Per arrivare però a un'omogeneizzazione dell'imposizione fiscale tra i vari stati ci vorrà del tempo, ci spiega Stefano Simontacchi dello studio Bonelli Erede. C'è ancora troppa competizione tra gli stati nel voler attrarre le imprese, quindi non credo sia un qualcosa che possiamo aspettarci nei prossimi 5-7 anni. Le differenze tra i vari paesi sono marcate sia in termini di base imponibile. Da un punto di vista fiscale ho due variabili, come è stato, ho l'aliquota, e abbiamo visto per esempio l'Inghilterra intende abbassare l'aliquota in maniera molto significativa, anche gli Stati Uniti stessi uscendo dall'Europa, quindi ci sono una serie di stati che giocano nella competizione globale sull'abbassamento dell'aliquota. Poi evidentemente posso lavorare anche sulla determinazione della base imponibile, cioè qual è il reddito da soggettare all'aliquota X. Anche su questo però i governi europei sono molto distanti tra loro. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ecco dunque anche in quest'ultimo servizio uno dei motivi perché probabilmente l'Europa progressivamente è diventata così impopolare. Vi ricordo il nostro sondaggio sul sito di Radio 24, dunque perché l'Europa è diventata così impopolare. Vi chiediamo di votare e di contribuire col vostro racconto. A fine mese una grande edizione transeuropea per capire appunto cosa sta succedendo a questa straordinaria costruzione politica. È tutto per adesso, un saluto, a domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.